Ingeborg riprese a scaldarsi. Si era piuttosto raffreddata mentre lui aveva riso da solo al pensiero delle peregrinazioni senza rimorsi di Lady Missenden. Andare in Italia, infine, e andarci a tali condizioni. Desiderata, indispensabile addirittura alla creazione di una grande opera d'arte. Si trattava di certo della più prodigiosa somma di onori mai tributata a una donna. E per quanto tempo dovrei star via? Chiese. Qual è il tempo minimo necessario alla realizzazione di un quadro? Lui, con leggerezza, le rispose che un mese sarebbe stato sufficiente, ma nell'udire la sua esclamazione di sgomento, lo ridusse a una settimana. Ma contando anche il viaggio di andata e di ritorno, allora diciamo una decina di giorni, si corresse ancora. Sono sicuro che ti è possibile liberarti per 10 giorni, per andare a Berlino e fare degli acquisti troppo a lungo rimandati, aggiunse guardandola. Ma io non ho bisogno di fare acquisti. Oh, Ingeborg, ecco che rispunti il ragazzo cantore. So bene che non hai bisogno di fare acquisti, che non andrai a Berlino, ma è ciò che direi a Robert. Esclamò. Ma non sarebbe piuttosto. Vorrei sapere perché non puoi comportarti in modo semplice come quando sei andata a Lucerna. Avevi voglia di andare e ci sei andata, lasciando tuo padre che aveva un disperato bisogno di te. Eri il suo braccio destro. Qui invece non sei il braccio destro di nessuno e non ti sto proponendo di far nulla che ferirebbe Robert. Devi soltanto organizzare le cose in modo che lui non sappia nulla oltre a Berlino e agli acquisti. Di certo, dopo tutti questi anni puoi lasciarti andare per 10 giorni. Ingeborg, in silenzio, camminò al suo fianco lungo il sentiero che si snodava fra i cespugli di lillà fino al cancello che dava accesso al cortile. Era esaltata, ma anche turbata dai dubbi. Le sue parole suonavano così totalmente ragionevoli, così logicamente accettabili, che non le riusciva di trovare alcuna controargomentazione. E poi nutriva uno struggente desiderio di partire. Era convinta si trattasse di una missione meritevole ed elevata. Eppure, dato che la sera era tranquilla e l'aria ferma, le finestre del laboratorio erano aperte. All'interno scorsero la sagoma di Herr Dremmel, incurante delle falene che svolazzavano in circolo sopra la sua testa china sul lavoro nell'alone di luce emanato dalla lampada. Buonasera, fu il saluto che Ingram rivolse in direzione della finestra con quel tono di voce particolarmente cordiale che si riserva ai mariti. Herr Dremmel però era troppo assorto per sentirlo. Quella notte verso le 2 scoppiò un temporale, cui seguì un lungo rovescio. Quando Ingeborg si alzò, il mattino successivo scoprì che l'estate se n'era andata. Fuori la pioggia cadeva battente e all'interno la casa era fredda, buia e lugubre. Osservando dalla porta d'ingresso il cortile, che per 5 settimane era stato un luogo asciutto e luminoso, pensò di non aver mai visto tanta desolazione. Le gocce picchiavano sull'edera con uno scroscio monotono e incessante. Il maiale, che grufolava solitario nel fango, era assolutamente fradicio. Pozzanghere punteggiavano il terreno ovunque, piccoli specchi di acqua piovana. Come succedeva ogni volta dopo un temporale, il tempo si sarebbe guastato per giorni, probabilmente per settimane. Che cosa avrebbero fatto ora lei e Ingram? Che cosa avrebbero mai potuto fare? Sarebbero dovuti restare rinchiusi nel salotto angusto, lui impossibilitato a lavorare ed entrambi senza poter passeggiare e senza poter utilizzare il barchino. Beh, era ovvio che lui sarebbe partito al più presto, decretando la fine di quel magico incantesimo. Una settimana così, disse Herr Dremmel emergendo dal laboratorio per fermarsi sulla soglia e sfregarsi le mani con grande compiacimento. Una settimana di questa pioggia e la situazione sarà salva. Quale situazione, Robert? Domandò sentendosi la mente plumbea e appesantita non meno del capriccioso cielo grigio. Lui la fissò. Oh, già! Aggiunse precipitosamente. Ma certo, i tuoi campi sperimentali. Sì, credo non abbiano desiderato altro durante tutto quel periodo di tempo celestiale. Quel tempo, disse Herr Dremmel, non aveva niente a che fare con il cielo, ma solo con l'inferno. In un clima del genere soltanto i diavoli potrebbero prosperare, crescendo grassi e con grosse orecchie. Diavoli avvezzi alla siccità, non di certo i teneri frutti della terra. E per un attimo la sua mente indugiò sulla riflessione di quanto ampia potesse rivelarsi la barriera esistente tra due persone che considerassero lo stesso tetto, ma non gli stessi gusti in fatto di tempo. Ingram arrivò alle 2 in punto, in uno stato di profonda irritazione. Attraversò il pantano del cortile con grandi falcate, reggendo l'ombrello con aria irascibile, il collo del soprabito rivoltato all'insù. In quel suo umore da tempo uggioso, gli appariva del tutto assurdo e immeritevole guardare un cortile acquitrinoso della Prussia orientale sotto la pioggia battente e l'insufficiente riparo di un ombrello al solo scopo di sedere accanto a una donna. Non vedeva l'ora di mettersi all'opera. Si sentiva ossessionato dal suo quadro. Era in preda a quella smania che coglie l'artista dopo un periodo di inattività, la smania di allontanarsi, di ritornare al nodo cruciale della sua vita, il sacro fuoco della creatività. Sino a quel momento, per compiere le sue visite quotidiane, non era mai dovuto entrare in casa. Fu così che nel varcare quella soglia si sentì immediatamente profondamente offeso dall'odore che gli veniva incontro, l'odore di ciò che un'ora prima era stato un pranzo tedesco. Il lezzo gli andò incontro, per così dire, porgendogli un greve benvenuto. Era acre, persistente, fagocitante. La porta d'ingresso era spalancata, ma solo un lasso di tempo estremamente lungo avrebbe potuto liberare la casa da quel fetore così particolarmente invasivo. Si sentiva profondamente scioccato al pensiero che la sua musa, nivea e dorata, quell'icona vivente cesellata in puro oro e avorio, dovessi in una giornata così cupa restare immersa in tali miasmi, rimanervi prigioniera e respirarli insieme all'aria stessa. Per giunta, i suoi momenti di comunione con lei si sarebbero dovuti svolgere nel viluppo di una cortina maleodorante che sembrava essere originata da diverse varietà di cavolo, e tutte benefiche. L'oscurità dell'angusta abitazione, la luce cruda che entrava dalle finestre esposte a nord, la forma della casa che terminava bruscamente, come fosse stata mozzata, in corrispondenza della cucina e del quartiere della servitù, furono tutti elementi che lo colpirono come incredibilmente, assurdamente sordidi. Che luogo per relegare una donna, e dopo avercela relegata, che luogo per trascurarla. Il pensiero delle negligenze di Herr Dremmel, quelle stesse negligenze che avevano reso il suo soggiorno possibile e piacevole, ora lo facevano infuriare. Come poteva osare tanto? Si chiedeva Ingram, asciugandosi gli stivali. Visti con gli occhi di colui che è in preda al cattivo umore, Herr Dremmel, Köckensee e ogni cosa connessa a quel luogo, tranne Ingeborg, gli apparivano quanto mai ignobili. Dimenticò le settimane di sole, i lunghi pomeriggi trascorsi in giardino, nella foresta e tra i campi di segale e la navigazione sulla grande immobile distesa d'acqua. Ora si sentiva ribollire d'odio. Köckensee gli appariva un luogo dimenticato da Dio, remoto, alieno, brutto, sporco, putrescente e intriso d'acqua. Ingeborg stessa, quando uscì di corsa dal salotto per venirgli incontro nel corridoio, dove il lezzo di cavolo era più persistente e gli sembrava meno splendida, più trasandata che mai. E poiché deprecabilmente la sua immagine era così fervida e pronta a tumultuare per un orribile istante, gli parve persino di scorgere tracce di cavolo tra i suoi capelli. Ingeborg, le disse non appena raggiunsero il salotto, non posso affrontare tutto questo. Non riesco davvero a sopportare certe cose, capisci? Si passò le mani fra i capelli e prese a rosicchiarsi un'unghia. I suoi occhi fissavano quelli di lei in una sorta di muto rimprovero. Temevo non vi sarebbe piaciuto, ribatté lei in tono apologetico, sentendo che la colpa del brutto tempo fosse in qualche modo sua. Piacermi. E poi non posso più rimanere inattivo. Non ti aspetterai che io me ne rimanga qui? Oh, ma io non mi sono mai aspettata, lo interruppe precipitosamente, sorpresa e turbata al tempo stesso di aver prodotto un'impressione del genere. Beh, non vedo alcuna differenza tra quello e il tuo far difficoltà riguardo al venir via con me, al pormi di fronte alla necessità di ricorrere a infiniti tentativi di persuasione. Ingram cessò all'improvviso di attraversare la stanza avanti e indietro e la scrutò. Mi stai davvero creando un mucchio di problemi, le disse con un tono che esprimeva amara sorpresa. E mentre lei rimase a osservarlo con le labbra leggermente dischiuse per lo stupore e gli occhi colmi di nuovi e ansiosi interrogativi, egli riprese a percorrere in lungo e largo il locale dimesso. «Dio mio!» esclamò, calpestando il pavimento con passi rapidi. «Quanto odio questa ritrosia da signorine!» E di nuovo gli sembrò totalmente e incredibilmente mostruoso che la realizzazione della sua opera suprema fosse procrastinata anche di un solo giorno da risibili, rilevanti scrupoli di qualsivoglia natura. Questo cielo plumbeo, disse, raggiungendo con un balzo la finestra e sostando presso di essa per un attimo. Questo fango, questo freddo opprimente. Ma, esordì Ingeborg, E le giornate, poi, in questo luogo sono insopportabili come linee nude e crude, linee senza respiro, spessore o sostanza. Ma sicuramente sino a oggi. Restare qui mi dà l'impressione di essere prigioniero in fondo a un pozzo, tagliato fuori dalla benevolenza e dalla fede nella vita, e sei tu che me le precludi. La accusò. Sì, sei tu che deliberatamente me le precludi, tu che deponi il pesante coperchio sul tripudio di luce e vita che vi è al di fuori di questo limbo, tu che spegni ogni cosa e non per il bene di qualcuno, ma di una fantomatica idea di Robert. Ma sono certa che qui mi annoia a morte. L'intera mattinata mi è stata insopportabile. In queste condizioni non oso nemmeno buttare via uno schizzo. Ne uscirebbe un disastro e pioverà all'infinito. Non posso restare in questa stanza, incomincio a delirare. Ma certo che non potete stare qui. Certo, dovete andare. Andare? E dove? Se senza di te non posso lavorare, partire. Quando tu significhi tutto per me in modo così atroce che quando sono lontano da te, ogni tuo più piccolo gesto galleggia come un corpo luminoso fosforescente nel mare freddo e oscuro della mia mente. E io mi trascino a fatica verso il ricordo di te, come una creatura tremebonda che desidera unicamente ritornare al calore del proprio nido. Ti ho ben detto che sono un parassita, ti ho ben detto che dipendo solo da te, ti ho ben detto che solo tu puoi dare un senso alla mia esistenza. Come puoi lasciare che io ti implori così? Come puoi lasciare che io ti implori così? Le due figure rimasero a fronteggiarsi al centro della stanza, gli occhi di lui che avvampavano in quelli di lei. Siete sicuro che sarei di ritorno fra 10 giorni? Gli chiese. Ingram ebbe la presenza di spirito di trattenersi dal prenderla tra le braccia per stringerla al cuore. Capitolo 31. Dal momento in cui gli disse che sarebbe andata con lui, Ingram fu un uomo diverso. Divenne sbrigativo, efficiente, allegro. Delle immagini poetiche come dell'uomo fradicio ed esasperato che era giunto sotto la pioggia non rimase alcuna traccia. Assunse all'istante l'atteggiamento rassicurante e soddisfatto di un fratello maggiore, un fratello zelante che trasudì di compiacimento. Le sue mani svelte liberarono il tavolo dal pattume degli studi inglesi di Ingeborg per rimpiazzarli con la cartina appena aperta del Reichsbuch. E con l'aiuto di un vecchio Baedeker, che i suoi occhi, a cui nulla sfuggiva, avevano scovato in un angolo, spiegò in chiari termini ciò che Ingeborg avrebbe dovuto fare. Annotò per lei quale treno avrebbe dovuto prendere da Moek ad Allenstein e quale altro da Allenstein a Berlino. Le suggerì il luogo dove trascorrere la notte a Berlino, una città che pareva conoscere a menadito. In ultimo tracciò un disegno a matita del reticolo di strade che dall'albergo conducevano alla stazione. E questa linea tratteggiata, disse spiegando la cartina, sono le impronte dei piedi di Ingeborg. Avrebbe trascorso la notte in uno di quei ricoveri per timide signore, quelle emanazioni della chiesa chiamate Christliche Hospize, sparse per tutta Berlino, luoghi in cui oltre a caffè e panini la colazione prevede anche preghiere e il suono dell'armonio. Avrebbe incontrato Ingram il giorno successivo alla stazione Hanhalter, quel felice trampolino di lancio di ogni viaggio diretto a sud. Mentre egli avrebbe lasciato Kökensee senza indugio, magari già quella sera stessa, per aspettarla a Berlino. Avrebbero poi proseguito verso Venezia, scendendo dal treno in vari punti del percorso appositamente per visitare alcuni luoghi. Vi era una passeggiata, ove lui desiderava condurla, che si snodava tra le colline intorno al Lago Maggiore, ad esempio. Ma abbiamo solo 10 giorni di tempo, gli ricordò. Oh, vedrai quante cose si possono fare in 10 giorni, la rassicurò. Poi disse che desiderava mostrarle Bergamo e di sicuro si sarebbero recati anche a Pavia, forse solo per vedere se quel certo glicine era ancora in fiore. Gli occhi di lei, galvanizzati dalla visione della cartina e dall'orario dei treni, danzavano estasiati. Pendeva dalle sue labbra, seguendo il percorso tracciato dal dito indice mentre si spostava tra laghi e monti, sentendosi come uno scolaro a cui venga mostrato l'itinerario della sua prima gita all'estero. Nella mente non aveva spazio che per pensieri di gioia incommensurabile. Quei nomi erano musica per le sue orecchie: Locarno, Cannobio, Luino, Varese, Bergamo, Brescia, Venezia. Con il cervello che le ronzava l'idea di salire sui treni, di vedere nuovi luoghi e del divertimento che l'aspettava, perse di vista gli aspetti più elevati di quell'avventura. Il dipinto e la sua posizione di vestale, indispensabile alla realizzazione di un capolavoro. Dopo anni di segregazione a Köken, anche solo un viaggio in treno fino a Berlino risultava così eccitante da farle accelerare la corsa del sangue nelle vene. E invece si sarebbe spinta ancora più avanti, più lontano, verso una luce ancora più luminosa, verso colori più accesi, verso il calore, il fulgore e un'infinità di cose nuove, fino a raggiungere il centro dell'universo e a mettere piede in Italia. Mormorò, è troppo bello per essere vero. Tutto a un tratto, ai suoi occhi, il Righi, che fino a quel momento aveva rappresentato la massima espressione della sua esperienza di viaggiatrice, si rimpicciolì fino ad assumere le sembianze di un trascurabile monticello di terra scolorita. Quando il tè fu annunciato con poderosi colpi alla porta e Ingeborg uscì per aiutare la domestica, Ingram ripose con cura ogni oggetto che avrebbe potuto denunciare quel viaggio clandestino, cosicché nel momento in cui Herr Dremmel li raggiunse, nella stanza non era rimasta alcuna traccia visibile che non fosse improntata alla sobrietà, ad eccezione degli occhi di Ingeborg. Il suo sguardo danzava senza posa. Ingeborg moriva dalla voglia di precipitarsi da Robert, gettargli le braccia al collo e dirgli che era in partenza per l'Italia. Desiderava che lui considerasse la sua gioia, che sapesse quanto era felice. A differenza di Ingram, che appariva tanto formale da mettere chiunque in soggezione, lei dentro si sentiva tutta accesa e festosa. Ingram incominciò a prodursi in commenti solenni sul cambiamento del tempo e dopo aver ascoltato il punto di vista di Herr Dremmel ed essersi rallegrato del suo compiacimento per via della pioggia, gli comunicò di aver portato a termine gli studi pittorici preliminari al ritratto di Frau Dremmel e che pertanto sarebbe partito il mattino successivo. Gli avrebbe quindi presentato i suoi saluti quando avesse deciso di rientrare in laboratorio. Herr Dremmel pronunciò alcune educate frasi di rincrescimento. Ingram educatamente ringraziò. D'un tratto Ingeborg si sentì meno festosa, i suoi occhi smisero di danzare. Per qualche strana ragione sentiva crescere lei il desiderio di far scivolare la sua mano in quella di Robert e di avvicinarsi e di mettersi a sedere accanto a lui. Ah, se solo avesse acconsentito a partire, se solo per una volta si fosse concesso una vacanza e l'avesse accompagnato ad ammirare quei luoghi come sarebbero stati felici insieme. E sembrava una cosa così meschina lasciarlo lì da solo con quell'orribile pioggia, mentre lei se ne andava in giro in Italia. Ma lui non l'avrebbe mai accompagnata. A lui la pioggia piaceva e di certo non avrebbe lasciato andare nemmeno lei se gliel'avesse chiesto apertamente. L'esempio di Lady Missenden o di quegli altri noti personaggi non l'avrebbe smosso di una virgola, né avrebbero sortito alcun effetto i suoi discorsi indignati che rigettavano in quanto assurde eventuali accuse di sconvenienza. Nonostante le sue idee liberali e le ampie concessioni in materia di convenzioni sociali, infatti, era certa che non sarebbe comunque riuscita a eguagliare Ingram. Sospettava inoltre che le convenzioni a cui più volentieri transigeva erano quelle che non lo riguardavano in prima persona. No, non poteva permettersi il rischio di chiedergli il permesso. Doveva semplicemente andare. Doveva a tutti i costi. Eppure, si alzò d'impulso e con il pretesto di ritirare la tazza vuota del marito, andò verso di lui e lo accarezzò lievemente sui capelli. Herr Dremmel non si accorse di quel gesto, ma Ingram sì. Per il periodo che trascorse dall'ora del tè fino al momento in cui si accomiatò, dandole appuntamento alla stazione di Anhalt di Berlino, egli si comportò in modo straordinariamente naturale, cameratesco e allegro, un modo più simile a quello di un vero fratello di quanto lei avesse mai visto o immaginato. Mi prometti, le chiese quando ebbe già oltrepassato la soglia, girandosi all'indietro un'ultima volta prima di affrontare l'infinito pantano del cortile, che posso contare su di te? Ingeborg rise. Ritta sul gradino più alto della soglia, illuminata dalla lampada appesa in corridoio, Ingeborg appariva a sua volta una piccola torcia fiammeggiante di risolutezza, esaltazione e compiacimento. Parto per l'Italia, disse allargando entrambe le braccia come se volesse abbracciare tutta quella terra di sogno. È così complesso e l'uomo al tempo stesso così semplice nella sua complessità che Ingram si allontanò nel crepuscolo gocciolante, offrendo a Dio il suo grazie più sincero. Quando giunse il momento di informare Robert riguardo a Berlino e gli acquisti, il cuore di Ingeborg prese a battere all'impazzata. Si era all'ora del tè del giorno successivo. Fin dal mattino aveva fatto continui tentativi di comunicargli la notizia, ma ogni volta la sua lingua si paralizzava. Aveva tentato di informarlo durante la colazione, poi durante il pranzo e anche durante il tempo intercorso tra l'uno e l'altro, recandosi due volte sino alla porta del laboratorio, ma fermandosi sullo zerbino. Invece di entrare allontanandosi, in entrambi i casi silenziosamente in punta di piedi. E intanto Ingram viaggiava in direzione di Berlino, Poi vi giungeva e scalpitavi in attesa del suo arrivo. Durante il tè, dopo una passeggiata compiuta in uno stato d'animo tumultuoso, diguazzando attraverso una campagna grondante, una distesa grigiastra e squallida che si estendeva per parecchie miglia, in cui aveva giurato a se stessa che avrebbe comunicato la sua partenza al marito quello stesso pomeriggio, riuscì finalmente a tirar fuori l'argomento. Intendevi informarlo con grande naturalezza del tuo suo desiderio di recarsi a Berlino per acquistare degli stivali. Avevi escogitato l'idea degli stivali in quanto oggetti semplici, che era possibile acquistare velocemente e rassomiglianti d'aspetto gli uni agli altri, a differenza di cappelli o abiti che più avanti avrebbero potuto richiedere delle spiegazioni. Oltretutto aveva davvero bisogno di nuovi stivali, quindi li avrebbe acquistati comunque. Il che l'avrebbe aiutata ad essere naturale, come se quanto avrebbe detto entro breve corrispondesse a realtà. Ma in fondo al cuore si sentiva così mortificata di dover parlare di stivali invece che raccontare a Robert, al suo Robert, al tutto sommato caro Robert, la deliziosa prospettiva del viaggio in Italia e la piacevole gamma di nuove sensazioni ora tumultuanti in lei, che dopo aver deglutito ed essersi schiarita la gola, deglutito di nuovo e boccheggiato, finì per non parlargli di stivali né tantomeno di Berlino. Ma si rivolse a lui con lo sproloquio indignato e impertinente di una suffragetta che chiede il diritto di voto. Egli, come d'abitudine, aveva portato con sé un libro e sedeva curvo sopra la sua tazza, leggendo dal volume che aveva appoggiato contro il bricco dell'acqua calda. Il testo si intitolava Eliminierung der Minusvarianten e la sua lettura, come del resto quella di tutti gli altri libri che portava con sé in occasione dei pasti, sembrava essere particolarmente accattivante. Lo scroscio della pioggia sull'edera era sovrastato solo saltuariamente dal rumore di Herr Dremmel che sorbiva il tè e la stanza era talmente oscura sotto la spessa coltre di nube grigie da rendere quasi necessario accendere il lume. Quando dopo 10 minuti di lotta interiore si chinò sopra il tavolo, affrontando l'inevitabile, mentre la maggior parte del sangue che aveva in corpo le affluiva al viso, esordì dicendo: Vedi, il fatto stesso che mi senta a disagio per doverti comunicare una tale banalità indica la vera misura della sottomissione delle donne. Herr Dremmel sollevò la testa, ma non gli occhi dal libro, intenzionato a esprimere una civile partecipazione verso qualsiasi argomento affrontato dalla moglie, ma anche a non distrarsi dalla frase che stava leggendo. Quando l'ebbe terminata, alzò lo sguardo al di sopra degli occhiali e le disse se avesse detto qualcosa. Perché non potrei andare e far ritorno senza dover dare delle spiegazioni? Chiese, indignata perché i ignobili pregiudizi la stavano spingendo ad abbassarsi fino al punto di escogitare uno stratagemma in cui degli stivali si sostituivano all'Italia. Tu lo fai. Egli la esaminò con aria imparziale. Che cosa faccio io, Ingeborg? Le chiese con pazienza. Andare e tornare quando meglio credi. Sei stato via, anche in posti piuttosto lontani. Una volta sei stato in un luogo situato dall'altra parte di Berlino. Oh sì, lo so che ci vai per motivi di lavoro, ma non significa nulla, al contrario. Piuttosto non è un motivo valido nemmeno la metà dell'andare in un luogo perché è bello, ameno, splendido. E poi non devo neppure chiederti dei soldi. Praticamente mi rotolo nel centinaio che mi dai ogni anno. Per anni non ho speso nemmeno un quarto di quello che mi hai dato. Il mio cassettone di sopra è pieno di banconote. Herr Dremmel la fissò, ma trovando impossibile attribuire un significato intelligibile alle parole della moglie, riprese nuovamente a leggere. Robert. Con pazienza, egli distolse nuovamente gli occhi dal libro e la guardò. Sotto il tavolo, sul suo grembo, Ingeborg si torceva le mani, pressandole nervosamente una contro l'altra. Ebbene, Ingeborg? Domandò. Non credi sia ignobile il modo in cui le donne debbano chiedere il permesso per fare qualsiasi cosa? No, rispose Herr Dremmel. In realtà la sua attenzione era totalmente concentrata sul problema delle minus varianten e fu solo per puro caso che non rispose sì. Quando i mariti si allontanano, non chiedono di certo il permesso alle proprie mogli, né queste ultime si aspetterebbero mai una richiesta del genere. Perché le donne invece devono farlo? Herr Dremmel la fissò per un attimo, poi produsse un gesto maestoso, elusivo, anche se del tutto garbato, e rispose: La cosa non mi interessa. Poi riprese a leggere. Lei si versò dell'altro tè, lo beve d'un soffiato, nonostante fosse bollente, e con uno sforzo notevole dichiarò: Questo Questa storia dei permessi è assurda. Io andrò a Berlino. Poi, con il cuore in gola, aggrappata al bordo del tavolo con entrambe le mani, rimasi in attesa di una reazione. Non accadde nulla. Robert continuava a leggere imperterrito. Robert! Lo esortò. Per l'ennesima volta, Herr Dremel strappò con riluttanza la propria attenzione dalla lettura, focalizzandola sulla moglie. Sì, Ingeborg? Rispose. Robert, ho intenzione di andare a Berlino. Davvero, Ingeborg? Le chiese con immutata pacatezza. E perché? Devo procurarmi alcune cose, fare acquisti. E perché proprio a Berlino, Ingeborg? Moek non è forse più vicino? Stivali, gli rispose Ingeborg. Introvabile a Moek. Io perlomeno non ne ho mai visti. E Königsberg? Anche Königsberg è più vicina di Berlino. Avrei di certo sentito parlare della lana di Berlino, disse Ingeborg, aggrappandosi spaventata com'era, la prima cosa che le passò per la mente. Bene, lo stesso vale per gli stivali. Egli la osservò come se stesse tentando di stabilire un punto di contatto con un'intelligenza aliena. Se proprio devi andarci, allora vacci pure, naturalmente. Concesse. Sì, e starò via 10 giorni. 10, Ingeborg? Per comprare degli stivali? Lei annuì con aria spavalda, ma non cessando di torcersi le mani sotto il tavolo. Herr Dremel tentò di sintonizzarsi sull'argomento. 10 giorni solo per degli stivali? Sì, 10, 10, rispose Ingeborg temerariamente, pronta ad affrontare massicce dosi di opposizione. E poi, quando sarò lì, ne approfitterò per vedere un po' di cose. I musei, per esempio. Non sempre solo stivali. Da quando ci siamo sposati non mi sono mai allontanata da Köckense, eccetto che per andare a Zoppot. È quindi ora che io mi muova. La quantità di tempo trascorso dall'ultimo viaggio è semplicemente ridicola. Ma certo, naturalmente, Ingeborg, disse Herr Dremel con la completa ragionevolezza di chi del tutto indifferente non ha alcun desiderio di imbarcarsi in una discussione. Ma allora non ti dispiace? Perché mai dovrebbe dispiacermi? Non sei nemmeno un po' sorpreso? Non capisco nemmeno perché dovrei essere sorpreso. E ancora una volta prese a considerare l'apparente cecità della moglie verso i veri valori della vita. Ingeborg lo fissò con l'incredulità di un bambino che si prepari a ricevere una sculacciata e che si senta invece elogiare. Provò sollievo, ma un sollievo doloroso, intriso di dispiacere e di rabbia, come quello di chi si concentri nello sforzo di sollevare un vaso credendolo troppo pesante e scoprendolo invece vuoto e leggero. La sua anima, per così dire, prese a far capriole. Che cosa bizzarra, mormorò, che cosa davvero bizzarra. E io che avevo paura di dirtelo. Ma ancora una volta, egli aveva cessato ad ascoltarla. La sua attenzione era stata catturata da un concetto. Sulla pagina posta di fronte a lui, che lo interessava enormemente, che lesse avidamente sino alla fine del capitolo. Poi, con il libro in mano, si alzò e si diresse verso la porta con aria meditabonda. Ella rimase seduta a fissarlo. Credo, penso che. Suppongo che partirò domani, disse in direzione della porta aperta. Partire? Ripeté lui in tono assente. Perché dovresti partire? Oh, Robert, se non mi metto in marcia non ci arriverò mai. Arrivare dove, Ingeborg? Chiese, gli occhi in quelli di lei malamente in volo verso spazi siderali. Oh, Robert, a Berlino, come ti ho detto. Ah, Berlino, sì, certo. Bene, Berlino. E rimuginando profondamente sulle nuove significative possibilità suggerite dalla recente lettura, uscì dalla stanza.